ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi. Sarà come giocare a nascondino, senza pensieri come fa un bambino, oppure ti spaventeresti a morte e ti dirai che sei impazzito. Mi lasceresti solo, solo, solo, solo. Disegnerai tu per me la mia ombra per terra, mi cercherai con le mani per baciarmi le labbra. Ti aspetto sotto le lenzuola come un fantasma che ti infesta a casa. Se diventassi uomo invisibile tra tutta questa gente, gente, gente, dare la colpa a te. Che mi hai guardato oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente. È chiaro che comunque ne approfitterei di questo mio superpotere, che sotto sotto un po' vorrei. Non ci penserei due volte a girare nudo per la strada, a guardarti con malizia quando esci di casa. Tanto chi vuoi che mi veda, ruberei la Mona Lisa senza vergogna in una chiesa. Io mi bacerei con te, non c'è giudice peggiore di chi giudica senza vedere.